Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Altro appuntamento questa settimana insieme all'Adico di Mestre. Saluto nuovamente con noi al telefono il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di quello che più volte può capitare, di essere in qualche modo raggirati da falsi venditori che si spacciano per una società, ma poi in effetti sono di tutt'altra società, vendono magari lo stesso prodotto, ma come dire, per conquistare la fiducia si presentano invece con il nome di un'azienda magari più nota. Certo Francesco, come hai detto te, la tecnica di presentarsi con società che hanno un nome più noto rispetto ad altre che sono magari nuove nel mercato agevolano chiaramente chi vuole far sottoscrivere nuovi contratti rispetto a chi magari diversamente farebbe più fatica a proporsi. Certamente però questo vuole essere anche un'occasione per riproporre quello che è un noto problema che vede molti consumatori rimanere coinvolti e continuare sempre a rivolgersi all'Adico, proprio perché denunciamo come, al di là di quello che può essere un metodo poco ortodosso di strappare contratti, ma esiste sempre un pochino un fenomeno che soprattutto d'estate non c'è mai di esaurirsi, ed è quello di truffare le persone o per telefono o suonando il campanello e proponendo contratti rispetto ad un altro, e che abbiamo riscontrato in questi anni non ha mai cessato di diminuire. Ecco, devo dire che anche a me era successo una cosa simile, mi hanno suonato il campanello di casa direttamente, io abito in un condominio, quindi era già entrato nel condominio il personaggio, e suonandomi il campanello io ho aperto e questo mi ha detto, sai, io sono della ditta, e ha detto il nome della ditta più famosa, diciamo così, e le posso far risparmiare un bel po' di soldi dalla sua bolletta elettrica. E da lì, insomma, è partito il mio discorso, che è durato qualche secondo, giusto per chiudergli poi la porta in faccia. Sì, noi in questo caso abbiamo cercato di portare attenzione al comportamento della Green Network, che si spacciano per gli operatori dell'Enel. Sono nomi che vogliamo fare perché nell'occasione di questo intervento vogliamo mettere un po' in guardia le persone quando ricevono queste chiamate, perché bisogna smettere di credere che qualcuno possa telefonarci e proporci pacchetti o tariffe che ci fanno realmente scontare quello che è il prezzo che normalmente paghiamo, oppure veramente cadere in trappola convincendoci che insomma andiamo veramente a pagare meno sensibilmente rispetto a quello che realmente paghiamo nelle bollette. Oggi siamo in un regime di libero mercato, ognuno propone la sua tariffa, grosse differenze l'uno dall'altro non ci sono, ma noi consumatori indichiamo sempre a farci lasciare il contratto, analizzarlo e poi non cadere nella tentazione di quella che può essere tante volte un prezzo, una promozione o una tariffa di ingresso rispetto a quella che può essere una tariffa che poi ti trovi a dover pagare a regime. Molte volte ti propongono un costo fisso o sicuramente più abbordabile o interessante rispetto a quello che paghiamo normalmente, ma poi magari scopriamo che questo è per 6 mesi, 3 mesi, 8 mesi, fin tanto che poi l'offerta non si mette, quindi, come abbiamo detto, a regime per il consumatore. Oggi bisogna pensare di individuare quelle che sono le offerte più adatte alle nostre abitudini in funzione un po' dei nostri stili di vita. Pensiamo per esempio alla telefonia mobile, dove ci sono dei minuti, scatti alla risposta rispetto a quelli che possono essere dei scatti o dei costi temporizzati. Quindi bisogna credere che non sempre il fatto che una parola, non ci sia un green dietro un nome, questo sia sinonimo di salvaguardia dell'ambiente. Oggi ci sono tante tendenze, tante abitudini, tante mode, ma ritengo che avere un po' di pazienza, prenderci qualche giorno di tempo, al limite a contattare l'associazione se si hanno dei dubbi e verificare se ci sono anche degli uffici di zona rispetto ad altri, può certamente aiutarci a intraprendere una scelta migliore e a semplificarci quelle che sono le problematiche quando possono insorgere delle controversie. Ecco, una buona cosa da fare, insomma, diffidare di quelli che ti dicono guardi, o accetta subito questa offerta incredibile, o perde un'occasione. Beh, insomma, credo che valga veramente la pena, come dicevi tu, fermarsi un attimo, ragionarci su, aspettare, prendersi il tempo necessario e poi con calma decidiamo il da farsi, se passare da un operatore all'altro di qualsiasi cosa, insomma, dalla telefonia alla corrente elettrica, al gas e a quanti altri servizi ci vengono forniti. Quindi grazie anche all'Adico, che è sempre attento a queste cose e che può dare un ulteriore aiuto. Ricordo associazionedifesaconsumatori.it, il vostro sito dell'Adico, sempre aperti, Carlo? Siamo sempre aperti tutta l'estate e anche in agosto, chiunque può chiamare in qualsiasi giorno. Se capita anche che le persone possono trovarsi in difficoltà di sabato e domenica, che lasciano pure messaggi sulle segreterie telefoniche, che poi erano ricontattati quanto prima, ma sicuramente sempre aperti fino alle 19:30-20 di sera. Grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, alla prossima settimana. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.